So che ogni tanto ti do giorni che fanno soffrire. Può non essere facile vivermi accanto, ma se accadesse di nuovo, so che non servirebbe cercarti, né bussare alla porta fino a rompere le mie mani. Lasciami provare a conquistarti un po' giorno per giorno e concederci un lusso, trasgredire ogni tanto, per coltivare l'amore come un fiore bellissimo e raro, che si sciupa con niente anche quando è più intenso e vero. Noi che siamo nati insieme al primo amore che non si dimentica, noi che pur di stare sempre insieme superiamo mille ostacoli, che abbiamo spento i grattacieli di Manhattan. Immagina come riuscirei a risalire dal profondo in solitudine. Io senza te come farei? Quale equilibrio troverei se ti perdessi ora, se ti perdessi ancora? Lasciati guardare, non mi chiedere a che sto pensando, che mistero capire quel che ha dentro una donna. Se accadesse stavolta lo vorrei sprofondare davvero, è soltanto un pensiero eppure io già sto male. Abbiamo scelto questa casa in una valle in mezzo agli alberi, noi a telefonarci ogni momento da qualunque latitudine, noi con queste mani ad affrontare l'uragano. Immagina io come potrei guardarti ancora dopo averti fatto piangere. Io senza te senza te che vita avrei se ti perdessi ancora, Virginia, come allora?